mi moglie, quando muoro, non mi porta i fiori la domenica, se porta i fiori ne va a portare fritti. Se me son testa, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa! E un buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Va a cominciare la trasmissione odierna di Impatto, Voci contro le nocività. Oggi lunedì 24 giugno, con un leggero anticipo rispetto allo standard che rispettiamo, insomma, di cui ci vede sempre i protagonisti, un piccolo ritardo. Scaletta della trasmissione di oggi, una corrispondenza dalla Notav per avere un aggiornamento e le prospettive delle mobilitazioni su quel territorio contro il progetto TAV in Val di Susa, e anche come questo si intreccia con il nuovo decreto del fare che il governo PD-PDL sta mettendo in campo. Torneremo poi con i rifiuti di Roma e del Lazio. Ricomincia dopo la passata tornata elettorale e l'elezione del sindaco di Roma, ricomincia il toto di scarica per il post Malagrotta, e insomma spiegheremo quello che si è mosso in settimana e quali sono le prospettive anche alla luce delle inchieste giornalistiche che sono uscite in questi giorni. Ritorna il decreto del fare anche nell'ambito dei rifiuti del Lazio, perché insomma ci saranno delle sorprese proprio sugli inceneritori e su ulteriori finanziamenti e regali a questo tipo di impianti. Chiudiamo la trasmissione cercando di fare un resoconto di quello che insomma pare una notizia secondaria, ma tanto secondaria non è, perché coinvolge migliaia, milioni di persone, particolarmente migliaia e milioni di bagnanti che tutti i fine settimana fanno il bagno nelle acque della riviera sud del Lazio, insomma le acque del mare Tirreno a sud di Roma e anche a nord non sta messo proprio bene, e un fatto di cronaca ha fatto emergere invece una situazione abbastanza tragica. Chiudiamo con il grave episodio di un incendio che ha distrutto l'impianto di CDR di Pagliano, e quindi a risentirci a tra qualche minuto. Andiamo a toccare insomma il primo argomento della giornata, ovvero la questione TAV in Val di Susa, la Torino-Lione in Val di Susa. Prima di passare a capire come si svilupperà l'estate no TAV e a comprendere che tipo di spostamenti, di finanziamenti ci sono stati in seguito al decreto del fare varato da Palazzo Chigi pochi giorni or sono, vorrei fare due appunti sul processo che c'è stato, il maxi processo 52 no TAV che si è svolto, la cui udienza si è svolta svolta il 21 giugno scorso nell'aula bunker del carcere di Valdettere. Molti testi sono stati richiesti alla difesa e sono stati rifiutati, non ammessi. Sono stati ammessi invece alcuni nomi celebri, quali Beppe Grillo, Giulietto Chiesa, Marco Revelli, Giorgio Cremaschi ed altri, sperando che ci tornano buoni, insomma. E perché la difesa tenta di impostare questo tipo di, appunto, di processo, vuole mostrare come i fatti della Maddalena e del 3 luglio, lo sgombero della Maddalena, siano all'interno di una lotta di ben più ampia portata e quindi non siano presi così in maniera isolata, estrapolati dal contesto, e chiaramente li rende più gravi di quanto effettivamente siano. Questo tipo di impostazione ovviamente è osteggiata dall'accusa, che infatti ha presentato alcune parti civili, si sono costituite parti civili Ministero dell'Interno, della Difesa e dell'Economia, perché dicono di aver subito un danno diretto nei fatti del 3 luglio. Il prossimo appello è previsto per il 5 luglio e quindi speriamo, insomma, che ci sarà un presidio consistente come è avvenuto l'anno scorso. Possiamo dire che il processo Nottab è sempre molto seguito sia a livello mediatico, ma per fortuna anche da tutti i solidali e tutti i Nottab presenti sul territorio, non solo piemontese. E poi va bene, andiamo a parlare del decreto del fare. Ci gira un po' di voci su internet, sulla stampa, cerchiamo di capire qualche cosa, poi magari ce lo spiegherà meglio il compagno che andremo a sentire della Valle. A quanto pare con questo decreto del fare si prendono questi 524 milioni che erano previsti per la Torino-Lione nei prossimi 3 anni e li si dirotta su un fondo, il cosiddetto fondo sblocca cantieri, ovvero per le opere immediatamente cantierabili. E in questa manovra rientra anche il terzo valico, che cede oltre 770 milioni di euro. Però diciamo è una notizia da valutare, secondo me, perché poi le intenzioni del ministro sembrano, insomma, sempre le stesse. Testualmente cito, dice: non c'è nessun definanziamento né blocco delle grandi opere, c'è solo un utilizzo temporaneo di risorse già previste che verranno prontamente ricollocate. Anche Virano, il super commissario che, insomma, tutti conosciamo della Valle, e dice che i fondi vengono semplicemente utilizzati a livello temporaneo perché fino al 2016 non servono in questi cantieri. Però non si pensi assolutamente a un disimpegno del ministro, insomma, del governo italiano. Detto questo, siamo, insomma, anche un po' perplessi da queste dichiarazioni, perché effettivamente anche la Francia sembra non avere molti fondi da destinare alla Torino-Lione. Infatti fonti sempre ufficiali, cioè ufficiose ma non ufficiali, ci dicono che la Francia, causa crisi, quindi difficoltà economiche e difficoltà negli investimenti, non troverà i fondi per il TGV prima del 2030. Quindi poi in realtà sta crescendo anche un movimento Nottav in Francia, si sono già formati gruppi Nottav francesi. Il 29 giugno ci sarà tra l'altro un corteo che partirà da Maurien, scusate la pronuncia francese indecente, che è un paesino vicino al Fréjus, dove sono già state scavate 3 discenderie che andranno a far parte del tunnel geognostico della TAV, e a quanto pare la LTF, ovvero l'azienda costruttrice del treno, vuole cominciare lì i lavori nel 2014. Quindi, insomma, comunque anche la Francia si sta muovendo, sia a livello ufficiale con un problema di fondi, sia a livello, insomma, di base con una protesta che segue un po' quella italiana, e speriamo che cresca sempre di più e che si riesca a dar man forte su entrambi i lati delle Alpi. E detto questo, io andrei a chiamare il compagno della Valle. Ah, tra l'altro ricordo che oggi c'è un'iniziativa per cui alle 6 ci si vede a Chiomonte per fare una passeggiata fino in Clarea e, insomma, andare a dar fastidio all'eretico come al solito. C'è stato anche un campeggio di 3 giorni a Gravella, ovvero la zona di Chiomonte dove c'era il presidio sequestrato, dove si è avvenuto il campeggio l'anno scorso, e, insomma, andiamo a capire un po' com'è andata questi 3 giorni di mobilitazione e di iniziative. Yeah. body sims with a fucking triceratops. Reptar, rapping as I'm mocking deaf rock stars. Wearing synthetic wigs made of anwars, dreadlocks, bedrock, harder than a motherfucking Flintstone. Making crack rocks out of pissy nigga fish bones. This nigga Jasper trying to get grown. About 5'7" of his bitches in my bedroom. Hey. Swallow the cinnamon, I'ma scribble this shit and shit. My Sid is telling me that she's been getting intimate with men. Sid, shut the fuck up. Here's the number to my therapist. Shit. Tell him all your problems, he's fucking awesome with listening. And this isn't a fucking hotline. Four fucking shrink. Sheesh, I already got mine. And he's not fucking working. I think I'm wasting my damn time. I'm clocking 6:03 and going postal. This the revenge of the dicks. That's 9 cocks that cock 9. Pronto, ciao Fabrizio. Ciao, ciao. Ciao, senti, innanzitutto va bene, ti ringraziamo per la disponibilità. Noi ti abbiamo introdotto un po', nel senso grazie che grazie a voi. Abbiamo detto che c'è stato un altro giorno di campeggio su in Valle e a Gravella, che è l'ex, diciamo, che è la zona di Chiomonte, poi per chi non fosse esatto. troppo pratico del di su, abbiamo un po' detto la questione dei finanziamenti che sembra sorgere in seguito al varo del decreto del fare, quindi insomma questa queste voci sono iniziate a girare sul finanziamento o no della TAV, sullo spostamento dei finanziamenti o no della TAV per il 13, e se vuoi dirci qualcosa, però insomma diciamo che a noi interessa sapere un po' più che altro com'è l'aria su, come sono andati questi 3 giorni e quindi un po' le prospettive per queste altre settimane di campeggio. Questi 3 giorni è stato, diciamo, un secondo tentativo di riportare il campeggio in questa località Chiomonte davanti alle reti, perché la prima a maggio è stata funestata da maltempo e ce l'aveva proibito praticamente. E adesso abbiamo riprovato, purtroppo anche questa volta il tempo non è stato dalla nostra parte, soprattutto il primo giorno ha sempre piovuto, quindi risistemare il campeggio c'è stato praticamente impossibile. Siamo riusciti comunque a fare quello che c'era in programma, una passeggiata alle reti, una serata più di festa il secondo giorno, il sabato, ieri un'assemblea. Quindi siamo ritornati comunque lì, in quell'area in cui ci avevano allontanato lo scorso novembre col sequestro del presidio, del nostro presidio, l'allontanamento dei vari compagni che lì risiedevano. E per noi era importante ottenere questa cosa, un rientro in quel posto, perché per noi è fondamentale essere lì, stare lì davanti alle reti. Quindi quest'estate sicuramente ci ritorneremo, anche se abbiamo deciso che il campeggio, quello che ormai da 2 anni tradizionalmente viene fatto per cercare di contrastare il cantiere della Maddalena di Chiomonte, quest'anno sarà a Venaus, quindi un po' più lontano dal teatro che è appunto della Maddalena, però comunque non così lontano da evitare un continuo azione di contrasto, continua opposizione a questo cantiere. So che ci sono delle settimane programmate, per il resto ci sarà un campeggio libero, diciamo. Esatto, perché i primi 15 giorni di luglio abbiamo voluto un po' dedicarli alla radio, a Radio Blackout, che ha tanto bisogno di attenzione su di sé, una radio che per il movimento Torino è non solo importantissima, quindi il campeggio naturalmente è libero a Venaus, chi vuole andare vada, ci saranno sicuramente delle iniziative di contrasto al cantiere, faccio questo invito, andate fin da oggi a Venaus, ci sono tutte le strutture adatte per poter fare il campeggio. Per i primi 15 giorni di luglio sono un po' dedicate alla festa di Radio Blackout ad Avigliana, alle porte di Torino, durerà 15 giorni con un programma molto interessante. Poi ci sarà, partirà dal 15 al 30 e appunto finirà il 30 di luglio, 2 settimane molto intense di campeggio strutturato, organizzato in cui chiamiamo veramente i compagni da tutta Italia alla partecipazione con attività molto importanti, quindi dal 15 al 30 luglio. Agosto sarà un po' più libera, diciamo, il campeggio, la possibilità di campeggiare, di stare a Venaus. Non mancheranno iniziative, però diciamo che quest'anno abbiamo più voluto concentrare iniziative su questi 15 giorni di luglio in maniera più strutturata, però comunque anche agosto e sicuramente i primi giorni di settembre ci saranno parecchie cose su in valle, ci sarà veramente da fare per tutti quelli che vorranno raggiungerci e partecipare con noi a questa lotta. Infatti a settembre, insomma, a quanto letto in giro, sembra che arriverà la talpa per il tunnel esplorativo in valle, quindi insomma sì, la talpa dovrebbe arrivare più o meno in quel periodo, arriverà smontata, delle parti molto grandi, molto ingombranti, sarà montata in cantiere prima che inizierà il suo lavoro, quindi insomma sapremo bene quando arriva esattamente. Appunto l'estate servirà proprio a svegliare la valle, non solo su questo appuntamento importantissimo per il cantiere della Maddalena. Senti Fabrizio, una domanda: se puoi farci un quadro delle conseguenze o comunque sia di quello che il decreto del fare apporterà, insomma, al cronoprogramma dei lavori in valle rispetto al progetto di TAV, che idea vi siete fatti di questa operazione? Ma è più che altro per gli appassionati del quadro istituzionale, ecco, secondo me. Cioè, chiaramente a livello governativo l'Italia ha mosso in questo decreto, muove dei soldi che fondamentalmente non ce li ha, non li ha mai avuti per questo progetto, li sposta da un capitolo all'altro, ma soldi che non ha in buona sostanza, sono solo passaggio di carte, così. Anche, ad esempio, anche la Francia a livello governativo si sta muovendo dicendo che le reti ad alta velocità forse non convengono più, ecco, quindi ci sono molte decisioni che stanno così, anche il Consiglio d'Europa si sta muovendo, ma chissà se conviene farle o no. Però per noi, ecco, a noi non interessa fondamentalmente questo livello istituzionale governativo, noi andiamo avanti con la nostra lotta, perché più che altro è un po', sono schermaglie loro istituzionali, governative. I soldi del decreto del fare non ci sono, quando mai ci sono 3 miliardi per le reti ad alta velocità? Se ci fossero stati li avrebbero già spesi 100 volte in altre cose, magari salvando il Monte dei Paschi di Siena ben prima del suo crollo. Cioè sono soldi che non ci sono fondamentalmente, che si muovono così sulla carta, ma in realtà non ci sono. Ci sono invece i soldi per andare avanti nel curriculum esplorativo della Maddalena, almeno non realizzarlo totalmente, realizzarlo in parte. Quelli ci sono stanziati, li stanno spendendo, ecco, noi interessa a quel livello lì un contrasto a quella cosa lì, il resto ci crediamo poco, il resto lo lasciamo più che altro a loro e gli appassionati della fase istituzionale, ecco. Noi andiamo avanti con la nostra lotta. E a proposito di lotta, insomma, è giunta notizia che proprio dal lato francese dello stesso progetto cominciano o ricominciano, insomma, le mobilitazioni, e proprio per luglio c'è un appuntamento. Il 29 giugno, scusa. Esatto, sì, sabato prossimo ci sarà la prima marcia popolare in Francia. Un'iniziativa importante in cui molti dalla valle andranno per sostenere i compagni francesi. È un'iniziativa che parte dal basso, totalmente dal basso, la prima volta che si fa in Francia, quindi insomma un segno di vitalità anche oltre Alpe, finalmente dopo una passività esagerata da parte francese, anche se non è mai stato totalmente così, si è sempre mosso qualcosa in Francia, però così molto molto flebile. Finalmente con questa marcia sappiamo di molti comitati che sono nati nel 2013 in Francia, sappiamo di molti ragazzi che si sono avvicinati a questa lotta, insomma sarà sicuramente una manifestazione molto importante sabato prossimo. Beh, sicuramente questo aspetto è fondamentale per, insomma, attaccare il progetto su tutta la tratta, che insomma contribuisce ad avere un rapporto di forza migliore con le nostre controparti, insomma c'è da ben sperare dallo sviluppo delle mobilitazioni anche dal lato francese. È un segnale sicuramente positivo che dà il segno, insomma, di una lotta che continua a espandersi e insomma che ha una prospettiva futura. Comunque sicuramente buona e vitale, e quindi insomma è sicuramente un aspetto molto importante. Esatto, esatto, l'unione delle lotte per noi è fondamentale, non soltanto questa ma un'unione di tutte le lotte, lavoriamo per questo. E noi ti ringraziamo Fabrizio, allora buona iniziativa, buon San Giovanni. Grazie. Di lotta, e ci risentiamo presto sicuramente. Infatti stiamo andando proprio lì a fare un'altra passeggiata, l'ennesima alle reti. Ciao. E quindi salutiamo i compagni Notav che vanno a fare questa passeggiata, questa mobilitazione, e ritorniamo in voce tra qualche minuto. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now giving no break. Police now giving no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Di nuovo in onda da Radio Onda Rossa, sempre Impatto, dopo questa canzone Bad Boys dedicata ai personaggi di cui parleremo a breve, i personaggi coinvolti da sempre nello smaltimento dei rifiuti in questa regione e nel Toto Discarica, che dopo l'elezione del Comune di Roma ha visto il muoversi di alcune pedine. Abbiamo raccontato la settimana scorsa come il mercoledì 19 giugno si sarebbe svolto un incontro tra regione, provincia, comune di Roma, commissario, proprio sul tema del post Malagrotta, e in settimana insomma non sono tardate a uscire le dichiarazioni, i comunicati e anche le indiscrezioni giornalistiche, nonché le inchieste giornalistiche proprio sul post Malagrotta. I soggetti in campo sono sempre i soliti e sono tutti quanti, insomma tutto l'apparato amministrativo della regione, il presidente della regione, i suoi assessori, il sindaco di Roma, i suoi assessori e poi insomma tutto il contorno di Ministero dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e il commissario Sottile. Insomma tutti i personaggi muovono le loro pedine, il programma che pare uscire dalla riunione dello scorso 19 giugno è quello di una proroga per Malagrotta fino alla fine dell'anno e di siti temporanei nell'attesa del sito definitivo, tutto coperto dal vecchio decreto Clini che ha sistemato la questione dei rifiuti non trattati. I rifiuti paiono diventati essere tutti innocui e trattati negli impianti di MB, purtroppo questi impianti vanno anche a fuoco, però comunque tutti insomma cercano di arrivare a una conclusione. Quello che è certo è che una nuova proroga a Malagrotta è già pronta, chi la insomma emanerà toccherà soltanto aspettare qualche settimana, ma il succo della situazione non cambia. Il patron, il boss dei rifiuti, Maglio Cerroni, continua insomma a spadroneggiare in questo frangente, in questo settore economico, e proprio da un'inchiesta giornalistica dell'Espresso insomma e che riprende le inchieste della magistratura proprio su questo filone, ne sono uscite delle belle proprio sui personaggi che gestiscono questa amministrazione e i nuovi governatori e assessori, e quindi insomma magari cerchiamo anche di riassumere quello che la scorsa settimana l'Espresso ha fatto uscire proprio su i bad boys della regione Lazio e del governatore Zingaretti, perché insomma è circondato da un bel po' di funzionari in odore insomma di malavita da parecchio tempo. Sì, ricordiamo che stiamo parlando di dirigenti della regione Lazio, quindi persone che prendono tra le 100.000, 150.000, 200.000 euro annui e si firmano il contratto da soli. Sì, e poi ovviamente gente che in continuità tra un'amministrazione e l'altra restano sempre al loro posto. Allora andiamo a vedere, andiamo a fare un po' di nomi, vediamo un po', iniziamo da Luca Fegatelli. Luca Fegatelli, fino al 2010 capo della Direzione Regionale Energia e Rifiuti, quindi qualcuno che con i comitati è entrato in conflitto più e più volte, poi capo Dipartimento del Territorio, diventato oggi numero uno dell'Abecol, l'agenzia per i beni confiscati delle organizzazioni criminali del Lazio. Un paradosso per chi, come scritto dall'Espresso, bla bla bla, è stato indagato dalla procura di Velletri per associazione a delinquere e concorso in truffa ai danni dello Stato in merito a un'inchiesta sull'impero dell'immondizia guidato da Maglio Cerroni. Beh, un esperto diretto del settore. Sicuramente, e sicuramente una vecchia conoscenza del coordinamento contro l'inceneritore albano. Dai tempi di Marrazzo. Sì, assolutamente. E proprio dalle denunce del coordinamento è partita poi questa inchiesta. Questa inchiesta appunto per truffa ai danni dello Stato, che ha visto coinvolto anche Romano Giovannetti, che il quale è un altro dirigente regionale che avrebbe armonizzato le scelte politiche e amministrative della regione Lazio alle esigenze di profitto delle aziende di Cerroni, operando per evitare la chiusura degli impianti e rimuovendo i funzionari non allineati. Poi andiamo avanti e leggiamo che nell'informativa che i carabinieri del NOE inoltrano ai giudici di Velletri spuntano anche alcune intercettazioni tra il solito Cerroni e l'attuale assessore rifiuti Michele Civita. Questa sarà molto interessante perché l'andremo ad approfondire tra poco, anche con in maniera un po' teatrale, ma ci sembrava piuttosto divertente da proporre agli ascoltatori. Per far capire il livello e anche l'alto profilo della nuova giunta regionale. Sì, Michele Civita non risulta indagato, però la telefonata era molto, molto simpatica. Quindi andiamo un attimo avanti, prima di passare appunto alla lettura delle intercettazioni di Civita e Cerroni, e andiamo a vedere chi altro c'è tra i dirigenti della Regione Lazio. Abbiamo Manuela Manenti, la dirigente che andrà a sostituire Fegatelli alla direzione rifiuti, anche se leggendo il suo curriculum sembra che l'immondizia sia veramente poco esperta, è un architetto specializzato in pianificazione del territorio. È stata rinviata a giudizio per truffa e turbativa d'asta a causa di presunte irregolarità su un appalto pubblico, il servizio bus per disabili organizzato dalla provincia di Roma. Ultimo, ma non meno importante, abbiamo il nome di Raniero De Filippis, che ai tempi della Polverini, direttore per le politiche sociali, è stato invece nominato a capo delle infrastrutture, nonostante la Corte dei Conti abbia pochi mesi fa imposto al dirigente di risarcire la regione per un danno erariale di 750.000 euro. Del resto, se questo non prende 200.000 euro annui, come fa a risarcire la regione di 750.000 euro? Non fa una piega questo ragionamento. Assolutamente no. Secondo i giudici, De Filippis, per 7 anni dirigente regionale e contemporaneamente commissario liquidatore della Comunità Montana Gronde dei Monti Ausoni del 2005, invece di chiudere bottega avrebbe assunto a tempo indeterminato ben 25 persone. Quindi abbiamo più o meno finito questa lista dei bad boys, almeno quelli legati ai disastri ambientali della Regione Lazio. Andiamo a vedere un po' chi abbiamo, cioè qual popò di dirigente per quel che riguarda l'assessorato ai rifiuti, Michele Civita, e appunto i suoi rapporti con Manlio Cerroni. E quindi andiamo alla lettura di uno stralcio di questa simpaticissima, insomma, telefonata tra i personaggi che sono Manlio Cerroni e Michele Civita. Allora, Manlio Cerroni esordisce così: perché non vedi di fare qualche provvedimento tampone in attesa della conferenza dei servizi? Se crolla questo, poi altro che Napoli, va bene? Va bene, faccio subito. La faccio chiamare subito da Vesselli. Ti richiamo più tardi. Sì, avvocato. Successivamente Civita richiama: avvocato, non serve che mandi niente, perché in settimana ti diamo l'autorizzazione definitiva. Non convochiamo la conferenza dei servizi, ci assumiamo noi tutta la responsabilità. Siccome è un rinnovo dell'autorizzazione, saltiamo la conferenza dei servizi. E la cosa appunto sembra essere soddisfacente per Cerroni, ma successivamente ci sono delle complicazioni, quindi Civita si trova a dover richiamare il patron dei rifiuti del Lazio. Avvocato, il no e sono entrati pesantemente. La cosa migliore è convocare la conferenza dei servizi. Ah, come sempre cagati sotto. No, non ci caghiamo sotto. Il 19 è convocata. Il 19 maggio? Questi dopodomani sequestrano l'impianto. Adesso io ho sbagliato a passartelo stamattina, no? Eh sì, perché quello ha fatto l'ira di Dio. E finisce così. Questa è la storia dell'impianto di Rocca Cencia, tra l'altro, che doveva avere una seconda autorizzazione e Civita in qualche modo tentò di bypassare l'autorizzazione e farla passare come un rinnovo, quindi saltando la conferenza dei servizi. Sì, se ricordate qualche tempo fa, un paio d'anni fa forse, a Roma i cassonetti, Roma zona sud-est, i cassonetti scoppiavano, e questo era dovuto al fatto che noi si erano accorti che l'impianto di Rocca Cencia non funzionava senza le autorizzazioni da circa 10 anni. E quindi insomma questo stralcio di intercettazione può dare insomma all'alto profilo della nuova giunta regionale, della propria indipendenza da parte dei poteri e delle forze imprenditoriali di questa regione. Sicuramente insomma grosse prospettive per gli assessori e per Zingaretti rispetto alle loro iniziative politiche, insomma devono ossequiare e rispettare insomma le richieste di questo imprenditore che insomma fa il bello e cattivo tempo e sfotte pure, e quindi insomma a noi ci viene da sorridere quando insomma qualche politicante che fa sempre il gradasso viene sfottuto da qualcuno più potente di lui. Sicuramente questo qui ci strappa sempre una risata. Comunque sia, adesso andiamo un attimo a sentire, richiamandoci sempre al decreto del fare di cui abbiamo già parlato per quel che riguarda i Notav. Adesso, dopo uno stacco musicale, andremo a sentire Cosa vuol dire invece questo decreto per quel che riguarda tutte le vertenze su inceneritori e rifiuti? Ok, allora a risentirci tra qualche minuto. In onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre trasmissione Impatto, Voci contro le nocività. Dopo insomma il divertente stacchetto in cui abbiamo letto le stralci di intercettazioni tra il padron dei rifiuti Maglio Cerroni e l'attuale assessore regionale Michele Civita, insomma ci siamo fatti quattro risate con gli sfottò che Maglio Cerroni in maniera un po' da gradasso affibbia alla giunta. Abbiamo in collegamento Daniele perché, come abbiamo detto prima della pausa musicale, il decreto del fare che è stato emanato in questi giorni ha tutta una serie di pesanti conseguenze sul settore del smaltimento dei rifiuti e in particolare sul capitolo inceneritori, perché insomma si prevedono nuovi fondi pubblici agli impianti già costruiti, nuove agevolazioni per decine di anni, tutto a spese nostre, e proprio questa situazione mette in allarme il comitato Noinc di Albano, perché proprio sulla non reperibilità dei fondi è la conseguenza del blocco del cantiere che va ormai avanti da parecchio tempo. Abbiamo in collegamento Daniele. Pronto Daniele, ci senti? Sì, Sì. Ciao. E insomma, ti abbiamo chiamato per cercare di chiarire meglio questa vicenda di questo decreto. Se ci puoi dire anche quando è stato emanato, se ancora è in via di discussione, e anche insomma le prospettive di come questo decreto si intreccia con la vicenda del GSE, che poi è l'ente che deve materialmente erogare i finanziamenti pubblici. Quindi insomma, se vogliamo cominciare proprio da dove ci eravamo lasciati qualche settimana fa, dal fatto che la convenzione preliminare, la prima convenzione, insomma la convenzione che il consorzio Coema aveva fatto, era praticamente stata dichiarata nulla dallo stesso consorzio, e come insomma il nuovo ministro dello sviluppo entra in maniera prepotente in scena proprio su questo nuovo rifinanziamento dei CIP 6. Sì, come ricordate appunto, ecco, c'è quella convenzione favigionata ormai del giugno del 2009 che disciplina il passaggio dei fondi pubblici CIP 6 e certificati verdi per costruire e poi gestire l'inceneritore d'Albano. Ci abbiamo messo un anno e mezzo, ma questo documento è divenuto pubblico e subito dopo lo stesso consorzio Coema di Cerroni, cioè Edama, che spingeva appunto per passare dalla convenzione preliminare a quella definitiva, quindi per avere proprio materialmente nella disponibilità i soldi per l'inceneritore d'Albano, con lo stesso consorzio, appena questo documento è divenuto pubblico, ha cominciato invece a chiedere una nuova convenzione che sostanzialmente annulli quella precedente di giugno 2009 e appunto permetta comunque, nonostante i termini di legge siano scaduti, di usufruire dei fondi pubblici per costruire il sceneritore d'Albano. Parliamo appunto dei CIP 6, che sono il 7% della bolletta elettrica, e parliamo dei certificati verdi, che sono i bonus extra che lo Stato paga ai monopolisti che producono energia elettrica anche dall'incenerimento dei rifiuti. Quindi si tratta di una enorme quantità di soldi. Questi fondi avevano una scadenza il 31 dicembre 2008, secondo l'Unione Europea l'inceneritore d'Albano non rientrerebbe all'interno appunto di questa scadenza, di questo limite temporale, proprio di questa scadenza, perché la cantierizzazione, per nostra fortuna, ad Albano non c'è mai stata. E quindi insomma, un primo elemento è il fatto che i fondi che si stanno per erogare sono per gli impianti già costruiti e che quindi per forza di cose godono dei CIP 6. E invece insomma c'è il caso in bilico proprio del progetto di Albano, che fino a questo momento non ha goduto di questo tipo di finanziamento, ma insomma si rischia invece di tornare indietro su questo tipo di decisioni e poi insomma di conseguenza di poter accedere a tutto il bottino. Insomma, questo è il succo. Diciamo sì, esattamente. In questo momento il decreto fare con l'articolo 5 prevede un'incentivazione extra, quindi un'incentivazione pubblica, una sovvenzione pubblica extra per gli inceneritori che sono già stati ad oggi ammessi a godere dei CIP 6, quindi gli impianti di cui si tratta sarebbero 7. Questi impianti per i primi 8 anni che insomma godono di una incentivazione statale pubblica extra, quindi di una serie di soldi che permettono al privato che ha costruito l'impianto di rientrare dell'investimento fatto. Diciamo, questi impianti, ecco, che sono 7 in funzione, che godono dei CIP 6, potrebbero, anzi sicuramente avranno a breve anche un incentivo extra, sempre per la durata di 8 anni come per i CIP 6, perché appunto questi impianti vengono considerati comunque socialmente utili, e parliamo appunto di un aumento dell'incentivazione che, secondo diciamo commercialisti che il comitato ha potuto contattare, si aggirerebbe intorno al 40-50% rispetto alla cifra attuale. Quindi si tratta di una cifra enorme. E perché diciamo potrebbe rientrarci quello d'Albano? Perché l'impianto d'Albano, nel caso in cui il ministro per lo sviluppo economico Zanonato decidesse di ammettere anche l'impianto d'Albano a godere, nonostante i termini di legge siano scaduti, degli incentivi CIP 6, rientrerebbe comunque anch'esso nel decreto fare, quindi oltre ai CIP 6 certificati verdi, anche l'impianto d'Albano paradossalmente sarebbe legittimato, quindi il regime di CIP 6, a godere di questo contributo extra sottratto all'erario pubblico permesso dal decreto fare, che è entrato in vigore proprio oggi, 24 giugno. Quindi Daniele, insomma, da quello che ci racconti si prospettano insomma anche nuove iniziative contro un'ipotesi di questo genere, e viene chiamato pesantemente in causa il ministro dello sviluppo economico. Insomma, ricordiamo che il precedente ministro, non quello del governo Monti ma quello del governo Berlusconi, proprio su questo argomento di porcherie ne aveva combinate parecchie, e insomma forse toccherà andare dal ministro Zanonato a ricordargli che eredità intende assumersi, insomma, di che livello anche, anche criminale, visto poi insomma è cronaca di questi giorni che tutto il settore amministrativo della Regione Lazio è coinvolto in un'associazione a delinquere proprio per privilegiare gli interessi di Maglio Cerroni, e insomma la giunta, nuova giunta regionale paga una sudditanza para a quella delle precedenti giunte. Insomma, ormai ne sono passate 3-4 da quando il progetto di inceneritore ai Castelli Romani è stato avviato, e quindi insomma è evidente che c'è bisogno di una nuova spinta proprio contro un'ipotesi di questo genere. Sì, hai ragione, era coinvolto l'ex ministro per lo sviluppo economico del governo Berlusconi, Claudio Scajola, quello famoso insomma della casa in via Facutale davanti a al Colosseo, che insomma gli avevano pagato senza che lui se ne accorgesse, poverino, e probabilmente non si era accorto che sempre in quel periodo, aprile 2009, aveva mandato proprio una lettera al gestore dei servizi elettrici, al GSE, per diciamo certificare l'avvenuta cantierizzazione dell'inceneritore del Albano, che in realtà per fortuna non è mai avvenuta. Quella certificazione che ad aprile 2009 diede Scajola proprio ai dirigenti del GSE, mise al sicuro i dirigenti che firmarono questa convenzione. Adesso per fortuna insomma siamo riusciti a far saltare tutto l'altarino, ma il COEMA, quindi il consorzio di Cerroni, cioè Edama, ci riprova, questa volta con Zanonato, e il ministro, insomma, come potete ben immaginare, ha un potere veramente importante, una copertura pure giuridica importante, poi risponderebbe solo al tribunale dei ministri, non al tribunale ordinario di qualsiasi reato eventualmente. Quindi in questo momento ha in mano questa convenzione, deve decidere se stralciarla punto e basta o se rinnovarla, e insomma noi come comitato noi ci abbiamo chiesto proprio formalmente con raccomandata AR un incontro con Zanonato, che ancora non ci ha risposto, e abbiamo fissato insomma orientativamente un sit-in per venerdì mattina 12 luglio proprio a Via Molise, sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Speriamo che non ci sia, che il ministro si apra un incontro col comitato, in modo tale insomma di mettere veramente una pietra tombale su questo progetto, che è assolutamente insensato da tutti i punti di vista igienico-sanitario, ambientale, economico, industriale, quindi è una follia totale come tutti gli inceneritori. Daniele, insomma, ti ringraziamo per insomma l'aggiornamento che ci hai fatto. Noi insomma precedentemente avevamo parlato anche del fatto che con la nomina del nuovo sindaco di Roma sul versante post Malagrotta si cominciano a rimuovere le pedine che insomma hanno permesso l'ampliamento tramite proroga della discarica di Malagrotta. Una nuova proroga sta arrivando, il toto discarica con il nuovo sindaco e tutto insomma il quadro istituzionale completo sta ricominciando, quindi insomma ci viene in mente che nel Lazio e a Roma e nella sua provincia insomma sarà un'estate abbastanza calda da questo punto di vista, perché poi insomma ci ricordiamo che sempre nel periodo estivo, quando l'attenzione scema, si tentano le operazioni quelle più vergognose, e quindi insomma sicuramente ci sarà da tenere alta l'attenzione per i mesi estivi. Anche perché noi abbiamo chiesto ormai da 3 settimane sia a Fabio Lazzara, che è il capo segreteria dell'assessore ai rifiuti della Regione Lazio Civita, quindi a voce ad un incontro, insomma un sit-in, all'ultimo sit-in sotto la sede della presidenza della Regione Lazio e del comitato Unic, ma anche per mail, per raccomandato che ricevuto di ritorno proprio a Zingaretti, allo stesso Civita, un incontro sempre su queste tematiche, e anche loro come Zanonato per il momento proprio non hanno risposto per niente. Quindi sicuramente sarà un'estate molto calda sia sul fronte regionale che su quello nazionale, quindi sia sul settore amministrativo che compete più alla regione che su quello economico e finanziario più al ministero, quindi restiamo veramente con il cervello acceso è molto importante in questo momento. Senti Daniele, poi indiscrezioni della settimana, poi tra l'altro rilanciano la partita del Post Malagrotta su un sito che si trova poi sempre dalle parti sull'asse della Via Ardeatina, insomma la cava dalle parti di Via Porta Medaglia, ritorna sui commenti giornalistici come possibile discarica temporanea nel frattempo che si trovi quella definitiva, e quindi insomma un ulteriore elemento di preoccupazione per un territorio che nell'arco di una decina di chilometri vede la presenza di parte impianti industriali di notevole portata, anche di almeno tre discariche, una di rifiuti solidi urbani, una di Carflu e una di amianto, insomma, e la quarta sarebbe la nuova discarica di Roma, che insomma potrebbe insomma prendere delle proporzioni e far prendere una piega a quel territorio sicuramente insomma catastrofica, e non si tornerebbe più indietro a quel punto, perché insomma le proporzioni della discarica di Roma le conosciamo bene a Malagrotta, sono centinaia di volte superiori a quella di una qualunque altra discarica, e quindi insomma c'è sicuramente da tenere alta l'attenzione su tutto il quadrante sud-ovest di Roma. Certo, a cui vanno aggiunte, a tutti gli elementi che hai dato tu, vanno aggiunti anche gli impianti cosiddetti a biomassa e a biogas, che di bio ovviamente non hanno nulla, ma che vengono almeno a livello progettuale per il momento un po' disseminati qua e là in ogni dove, ce ne sono veramente, se ne contano quasi 200 soltanto a Roma e provincia, tanto per dire, insomma è nel nostro quadro, anche il nostro quadrante sud e generale un po' di Roma, ce ne sono un'infinità proprio, sia per biomassa che per biogas. Allora, insomma, ti ringraziamo per l'aggiornamento e ci risentiamo prossimamente anche a ridosso di mobilitazione, e un ringraziamento. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao. Buonasera. Ciao. Vieni, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chip, chip, do do do do do, chip, chip, do do do do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do, chibum, chibum. Do do do do do, chibum, chibum. Do do do do do. E va bene, torniamo in voce. Questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di nocività ambientali e parliamo appunto di un grave incendio che si è sviluppato nell'impianto di produzione CDR di Acea nella località di Paliano in provincia di Frosinone. E sostanzialmente insomma c'è stato un grosso incendio che è scoppiato appunto all'interno dell'impianto di CDR e che ha interessato una vasta zona limitrofa che ha comportato quindi l'allarme insomma di tutti i comuni insomma nei dintorni. E come al solito diciamo sono state prese delle precauzioni abbastanza tempestive da parte dei vigili del fuoco, tuttavia non si capisce bene ancora quali sono i danni che ha comportato appunto la combustione di questi materiali, tra cui appunto c'è il pericolo abbastanza incombente che insomma all'interno di questa nube fosse presente della diossina. Beh, certamente, visto che la composizione del CDR è carta, cartone, derivati in legno e plastica, e insomma dalla combustione della plastica solo quello si può ottenere, cioè la diossina, è evidente insomma che la colonna di fumo vista da tutti i paesi della Valle del Sacco, insomma valle già pesantemente colpita da nocività e impianti industriali di ogni tipo, non fa che aggravare una situazione già pesantemente compromessa. E ricordiamo anche che nel piano rifiuti della Polverini a Paliano era individuato un altro sito per un impianto di TMP, per cui insomma già l'impianto di produzione di CDR ha preso fuoco, chissà che cosa altro ci vogliono raccomandare. E certamente insomma la sicurezza di questi impianti è molto scarsa, è molto relativa, incidenti di questo genere sono all'ordine del giorno, soprattutto alla luce degli interessi che girano su questa faccenda. È noto a tutti che il CDR non viene smaltito dentro gli impianti di incenerimento, perché questi impianti o non sono stati mai costruiti o non funzionano perché sono delle ciofeche, come insomma abbiamo sempre ripetuto. Beh, e quello di Paliano era diretto all'inceneritore di Colleferro che sta là dietro, che però insomma ci ha avuto dei problemi legali non indifferenti, e quindi insomma è evidente che molto spesso dietro ai roghi, come insomma in campagna spesso ci insegna, ci sono interessi magari ancora più cupi che con queste azioni insomma cercano di portare a casa il proprio risultato. Sì, poi tra l'altro insomma il consiglio da parte del comune era grandi precauzioni, insomma si consiglia di tenere le finestre chiuse e di non uscire di casa, però purtroppo l'incendio è avvenuto di notte e come sappiamo insomma fa caldo e quindi la gente dormiva con le finestre aperte, quindi insomma per circa 7 ore non si sa bene cosa abbiano respirato, visto che ancora le indagini sia sulle cause dell'incendio che su appunto la presenza eventuale di sostanze dannose all'interno della nube tossica sono ancora sotto il massimo riserbo. E quindi magari attendiamo le analisi dell'ARPA, l'agenzia regionale, che non fa un cavolo dalla mattina alla sera, per capire che cavolo e cosa si è respirato nell'area della Valle del Sacco nei giorni di mercoledì e seguenti a causa dell'incendio. Ma continuiamo con notizie sparse relative insomma a disastri ambientali e andiamo in Sardegna. Sì, in Sardegna, se ricordate, qualche tempo fa c'era stata l'iniziativa mediatica dei lavoratori l'isola dei Cassaintegrati, che aveva tentato di salvare la Vinils, proprio l'azienda che lavorava le plastiche della Sardegna. PVC. Sì, per la lavorazione del PVC. PVC, ricordiamo, al centro di un avvelenamento della città. Di molte aree industriali in Italia, tra cui Porto Marghera, Ravenna e la stessa Porto Torres, appunto. Sì, e appunto adesso arriviamo appunto l'operazione mediatica dei lavoratori ovviamente non ha avuto successo, e quindi adesso ci troviamo con questa, con una bomba ecologica che è proprio la, la, la chiusura della, della Vinyls, degli impianti della Vinyls. Perché sì, abbiamo la presenza di, praticamente, di discariche a cielo aperto nei terreni della fabbrica stessa. Sì, si tratta di circa 500 tonnellate di sostanze cancerogene che appunto si trovano all'interno dell'impianto, insomma, dell'azienda, e che sono state abbandonate così alla buona volontà dei lavoratori che appunto si trovano già da mesi senza stipendio e con la certezza di licenziamento, proprio appunto perché l'azienda verrà, insomma, dichiarata fallita dal tribunale il 27 giugno 2013. Però insomma, dopo una serie di mesi in cui appunto questa situazione era lasciata in mano ai lavoratori, questi lavoratori insomma hanno segnalato il loro abbandono di posto e quindi insomma sostanzialmente si ritrova, ci sta insomma questa zona altamente inquinata senza che ci sia nessuno a controllarla sostanzialmente. Quindi insomma non è cioè è plausibile il fatto che incidenti, incendi e operazioni insomma poco chiare possano essere portate a termine con molta facilità, proprio perché insomma tutto l'impianto ormai è stato dismesso e gli annessi lavoratori sono stati mandati a casa e nessuna forma di controllo si intende effettuare per impedire eventuali altri disastri. Sì, tra l'altro poi la zona di Porto Torres è una zona di interesse nazionale e già appunto ci sono state varie segnalazioni per eccessi insomma di tumori presenti nei comuni e nelle zone limitrofe, quindi insomma già una situazione che è chiara anche ai vari piani istituzionali ma continua ad essere ignorata a questo punto volutamente. E allora insomma, dopo quest'altra notizia dalla Sardegna, andiamo con una canzone che ci riporta al clima estivo e alla voglia di mare che con questo caldo insomma viene un po' a tutti, per tornare a parlare dello stato pietoso delle acque sulle coste del Lazio e di quello che insomma è saltato un po' agli occhi della redazione d'Impatto leggendo alcune notizie e poi controllando sul sito dell'ARPA proprio su questo argomento, cioè la qualità dell'acqua del mare a ridosso delle spiagge nella fascia costiera di Roma e della sua provincia. Come on, come on. E quindi stessa spiaggia, stesso mare, però probabilmente quest'anno per motivi di salute, cioè la nostra salute di bagnanti, forse è meglio cambiare spiaggia e mare, visto quello che si apprende consultando il sito dell'ARPA e dalle notizie che arrivano dalla cronaca della provincia. E in particolare la scorsa settimana il depuratore, un depuratore di Pomezia è andato in tilt ed è stata emanata dal sindaco Fabio, neo sindaco di Pomezia Fabio Fulci, ha firmato un'ordinanza di divieto di balneazione, in particolare a ridosso del fosso di Rio Torto, perché le acque del depuratore non depurate, il depuratore era rotto per un furto di rame, a quanto dicono i giornali. È la prima volta che succede, è strano che un depuratore non funzioni correttamente. La cosa più strana è il furto di rame. Io mermi, cioè, per quello che riguarda le ferrovie, insomma, il cavo di rame lì sopra la ferrovia c'è. Al depuratore il rame io non lo so dove lo tengo. Io che rosicavo la scorsa settimana di non essere andato al mare, vedi? E invece abbiamo fatto proprio bene, perché insomma, proprio all'altezza del fosso di Rio Torto i liguami sono arrivati a mare così come noi li produciamo, senza un trattamento, una depurazione, e quindi insomma è stata firmata questa ordinanza di divieto di balneazione. Questa notizia insomma ci ha fatto un po' pensare alla situazione di tutto il litorale romano. E controllando proprio sul sito dell'ARPA ci si è accorti come ordinanze analoghe siano presenti su tutto il territorio, da Ladispoli a Nettuno. E guardando la cartina e guardando le fasce balneabili e le fasce non balneabili è praticamente impossibile capire se si sta facendo il bagno in acque sicure o in acque inquinate che possono mettere a repentaglio la salute delle persone, perché insomma si fa il bagno nella cacca. Infatti la presenza di coli fecali è notevole in questo tipo di acque non depurate. Giusto corpattino, insomma, ci si può andare a mare. Sì, l'acqua non bisogna toccarla, bisogna insomma lievitare sulle acque. E la cosa più interessante è purtroppo il fatto che si continua a constatare che a ridosso di tutti gli sbocchi, di tutti i fiumi, come il Tevere, e di tutti i fossi, ci sia un'ordinanza di divieto di balneazione. E insomma, questo sta a dire che la rete fognaria di tutta la provincia di Roma non è altro che la rete di fossi che poi vanno al mare. Tutti i liquami, gli scarichi, insomma, gettano nei fossi e dai fossi vanno al mare. E quindi facciamoci due conti quando il prossimo fine settimana intendiamo andarci a fare un bagno, perché la situazione tra Ladispoli e Nettuno non è per niente rosea, e quindi insomma bisogna stare bene attenti a quello che si fa. Purtroppo constatiamo come questo tipo di segnalazioni e di cercare di mettere in guardia la popolazione dei rischi di una insomma esposizione a fattori non benefici per la salute sia proprio sottovalutata, probabilmente per cercare di non mettere a rischio la stagione balneare sul litorale romano, che già insomma è noto sia alquanto schifosa, però insomma quest'anno ci si appresta ad arrivare e a incrementare insomma c'è mai fine al peggio. Esatto, il pessimo stato delle acque sul litorale laziale. Abbiamo una telefonata, cerchiamo di capire cosa succede. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do? E quindi in onda abbiamo una telefonata. Pronto, ci senti? Sì. Ciao. Da quello che ci dicevi, ci chiami proprio da lungomare. Io abito da Ardea e faccio pure il bagnino, per cui conosco un po' la realtà da quelle parti, ma volevo dare un contributo più che altro sulla, sempre sulla sua situazione mare da quelle parti, che è allucinante. Cioè, qualche anno fa hanno fatto proprio ad Ardea dei passaggi a mare, distruggendo le case che impedivano la visuale appunto al mare, perché c'è stato tutto quell'abuso edilizio. Sì, ci ricordiamo dei articoli trionfanti sul Messaggero Di anni fa e anni fa, insomma, il trionfo. L'articolo erano trionfanti. Il trionfo più che altro è clamoroso, perché comunque ancora adesso quei passaggi che sono stati fatti appunto, cioè, con la classica ruspa da demolire quelle case lì, quelle case bene erano fatte con l'amianto, e il tetto d'amianto si può ancora trovare in mezzo alla sabbia, per cui l'operazione di bonifica perfetta, insomma. Sì, per cui oltretutto quei tratti lì corrispondono quasi sempre, insomma, a quei piccoli fazzoletti ancora rimasti di spiaggia pubblica per tutti quanti, e poi anche il passaggio di tutti i bambini, i cani, di tutte le famigliole che non possono permettersi l'ombrellone e se ne vanno lì, insomma. Cioè, è una cosa allucinante, anche perché si sgretola questo amianto e man mano appunto si mischia anche con la sabbia, per cui sarebbe impossibile poi fare un'opera di bonifica, bisognerebbe levare tutta la sabbia. Insomma, io ci tengo a dirlo, perché ci tengo a quel poco che è rimasto, insomma. E poi, insomma, ci segnali questa criticità per la salute delle persone, che insomma non è secondario. Se uno può evitare di prendersi qualche male brutto respirando amianto, insomma, tanto meglio. Magari bisognerebbe cercare almeno al sindaco di Ardea di imporre, insomma, una bonifica di quel piccolo fascia costiera. Però questo, insomma, dà anche il senso del clima e dello stato di tutto la coste a sud di Roma. Insomma, abbiamo detto che praticamente i fossi che vanno a mare sono la rete fognaria di tutti i paesi e della città stessa di Roma, e quindi, insomma, le conseguenze poi sono quelle che vediamo ogni fine settimana. Sì, anche Tor San Lorenzo, per dire, Lido dei Pini, insomma, sono proprio costruiti abusivamente nel passato e poi condonati, e sono proprio lì sul posto a ridosso di questi fiumiciattoli che poi per l'ordinanza balneare non c'è la balneazione sicura nell'arco, mi pare, di 200 metri dal fiume, da qualsiasi tipo di fiume che sia, comunque su una cartina qualsiasi, per cui anche un fiumiciattolo piccolo dovrebbe esserci insieme della balneazione, a prescindere dal fatto che comunque sia sicuro oppure no. Questo è quello che dice l'ordinanza balneare. Allora, ti ringraziamo per il tuo contributo e la segnalazione che ci fai, insomma, dal litorale comunque, di Roma. E le cose stanno cambiando, perché comunque il Berlusca si è preso 7 anni. E mo vediamo se basterà a far cambiare qualcosa. Però, insomma, intanto cerchiamo di tenere alta l'attenzione per evitare, insomma, disastri maggiori. E, insomma, ti ringraziamo, e magari se hai altre segnalazioni, noi le rilanceremo dai microfoni di Radio Onda Rossa. Va bene. Ciao, vigile a tutti. Ok, grazie. Ciao e grazie. E quindi, dopo questa notizia, questa corrispondenza da Ardea, per questa settimana è tutto. Non vi lasciamo con appuntamenti particolari. Beh, c'è l'appuntamento lanciato da Daniele per il no inceneritore Albano sotto il ministero, per andare a parlare con il ministro Zanonato al 12 luglio. Ok, a metà luglio. E invece magari ricordiamo il presidio giovedì 27 giugno alle 9 di mattina a Piazzale Clodio per il processo per devastazione e saccheggio del 15 d'ottobre, presidio solidale a sostegno degli inquisiti a cui hanno addossato il reato di devastazione e saccheggio. Insomma, partecipiamo al presidio in solidarietà e facciamo sentire la nostra voce, perché, insomma, chi devasta e saccheggia i nostri nostri territori non sono sicuramente quei ragazzi e quelle ragazze che sono sotto inchiesta per i fatti del 15 ottobre scorso. Con questo è tutto dai microfoni di Radio Onda Rossa, un saluto e un arrivederci a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e un buon pomeriggio e una buona estate.